Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchessi, questa è la seconda edizione di Italia in controluce. Italia in controluce per l'intera settimana seguirà il Festival Trame di Lamezia Terme sulla letteratura contro le mafie, che inizia il 22 e termina il 26 di giugno. Da oggi dunque trasmetteremo reportage e moltissime interviste a scrittori giovani presenti al festival. Racconteranno ai nostri microfoni come nascono le loro inchieste, come si sviluppano nei territori di forte insediamento di 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita, Camorra, Cosa Nostra. Iniziamo dunque con i reportage di Raffaella Calanda. La curiosità è l'antecamera della sbeggiatudine. A meglio parola è chi da conserisci. Se le mafie vivono di silenzi, le parole sono la prima arma per combatterle. Parole per denunciare, parole per raccontare, parole per scuotere chi dell'assenza di parole si nutre. Parlate di mafia in radio, sui giornali, in TV, ma parlatene, era l'invito di Paolo Borsellino. Un invito raccolto e trasformato in sfida da chi quelle parole di legalità e denuncia ora vuole portarle proprio nella casa dei boss. Trame di parole, appunto, contro i silenzi della mafia. Al centro di un territorio governato purtroppo dall''Ndrangheta, dove la forza della cultura, della letteratura antimafiosa può far risvegliare le coscienze. Livio Abate, inviato dell'Espresso, è il direttore del festival che porterà i vertici dell'antimafia e le voci di chi denuncia le trame dei boss proprio nel loro feudo, nel feudo di quella che è ora la malavita più potente e organizzata, l''Ndrangheta. Trame ha un obiettivo finale, che tutti questi autori alla fine faranno dei nomi, racconteranno dei nomi e tutto quello che è l'inchiostro, che è l'arma micidiale per certi collusi che vogliono restare nell'ombra, li tirerà fuori. Più nessun conto da regolare con la giustizia. Solo nel gennaio 2010 la parola 'Ndrangheta è stata inserita nei testi di legge dopo la bomba alla procura di Reggio Calabria e dopo una lunga serie di minacce ai magistrati che la combattono. Solo nel 2010 la politica e le leggi hanno riconosciuto anche formalmente il potere della malavita organizzata calabrese, che anche grazie a decenni di sottovalutazione è riuscita a crescere, diventando la mafia più ricca del mondo nella regione più povera d'Europa. Il procuratore aggiunto reggino Michele Prestipino. Silenzio che le ha consentito di diventare forte, potente in questi anni in cui l'attenzione mediatica per tanti motivi era rivolta maggiormente verso l'altra parte dello stretto, per giocando su questo cono d'ombra, e l''Ndrangheta indubbiamente ha stretto le proprie fila, ha continuato quella sistematica proiezione verso Nord Italia, verso l'Europa, verso gli altri continenti, e non c'è dubbio che l'azione di contrasto efficace si nutra in primo luogo della conoscenza, della diffusione della conoscenza. Quindi forse non è un caso che nell'anno in cui ci sono state così gravi e pesanti minacce a voi magistrati sia stato anche un anno di forti minacce e intimidazioni anche ai giornalisti calabresi? C'è secondo me una perfetta corrispondenza, nel senso che sono entrambi la conseguenza della rottura del silenzio, e l''Ndrangheta non sopporta la rottura di questo cono d'ombra che, ripeto, è stato uno dei suoi punti di forza. L'intimidazione ai giornalisti ha assolto una matrice di carattere generale, cioè il fatto che i mezzi di informazione, mi riferisco in particolare a quelli locali, hanno iniziato a parlare in modo sistematico, diretto, esplicito dell''Ndrangheta, hanno iniziato a nominarla. Ma questo perché si è iniziato a parlarne in modo esplicito, in modo continuativo, in modo sistematico nelle indagini, nelle inchieste, nei provvedimenti giudiziari? C'è questa corrispondenza, una corrispondenza che ovviamente ha segnato un superamento di un atteggiamento che nel passato era stato prevalente. E la rottura di questo silenzio, secondo lei, secondo voi magistrati, può avere anche un effetto all'interno della stessa organizzazione malavitosa? Voglio dire, questo è stato anche un anno in cui sono stati registrati diversi collaboratori di giustizia per l''Ndrangheta, cosa che si considerava estremamente rara. Ferrara. Può essere anche questo un effetto dello scossone che la maggiore attenzione nei confronti delle cosche calabresi può aver portato? C'è una correlazione? C'è un meccanismo a catena in questi fenomeni, cioè il fatto innanzitutto di nominarla l'Ndrangheta, poi di parlarne, di ragionarci sopra, di fare analisi, di confrontarsi, ha determinato anche un movimento che ancora è appena all'inizio, probabilmente anche all'interno dell'Ndrangheta, le voci che interne degli ndranghetisti che si raccolgono attraverso il preziosissimo strumento delle intercettazioni sono in questo senso significative, cioè abbiamo raccolto segnali di preoccupazione all'interno dell'Ndrangheta, segnali di preoccupazione sul fatto che si possa diffondere insieme alla progressione e agli effetti della progressione delle indagini anche nella gente comune, nei cittadini, la speranza, la possibilità di una via diversa, cioè di un'uscita da questo sistema oppressivo. Questo disegno di una possibile via di uscita è un qualche cosa che spaventa gli ndranghetisti e loro nelle loro interlocuzioni lo dicono molto esplicitamente. È la paura di una nuova realtà dove ci può essere una donna come Giuseppina Pesce che decide di saltare il fosso e iniziare a collaborare facendo arrestare madre e sorella, salvo poi ritrattare tutto. È la paura di una realtà dove aumenta chi alla violenza dei boss non risponde più con lo stesso metodo o col silenzio, ma riconoscendo in tribunale le facce di chi minaccia. È la paura di una realtà dove ora anche gli imprenditori cominciano piano piano a denunciare i propri estorsori. E invece, solo 3 anni fa, quando il procuratore raccontò al prefetto di un commerciante che si esponeva contro chi gli chiedeva il pizzo, quest'ultimo pensò si trattasse di uno scherzo. Non aveva invece proprio capito Don Giuseppe Panizza, parroco di Lamezia Terme, arrivato in Calabria da Brescia, quella richiesta di soldi per i carcerati, altra forma di pizzo, che questo sacerdote sotto scorta combatte proprio come ha fatto con chi gli impediva di usare un bene confiscato ai boss. Inventa una modalità soft di aiuto per far vedere alla gente chi comandiamo noi. Ecco, e così anche con le piazze, con i bar. Questi avevano preso una piazzetta piena di giovani e questi giovani pian piano hanno invece reagito con internet, con Facebook, portando le cose sui giornali, portando le cose in tribunale. Ed è per questo che lei insiste molto sul dialogo con i ragazzi e lei stesso ai ragazzi ha detto, li ha invitati ad auscultarsi. Secondo me i ragazzi sanno che è brutto farsi comandare da altri ragazzi. Ma ci siamo anche stancati di commemorare eroi che non ci sono più. Scrivono su internet, si passano parola, si trasmettono la loro indignazione e ci mettono la faccia i giovani della Calabria contro l'omertà dell'Ndrangheta, come quando si ritrovarono nelle strade di Locri dopo il delitto Fortunio dietro lo striscione Ammazzateci tutti. Ora i giovani calabresi, come prima quelli del 92, i giovani dei Lenzuoli Bianchi e delle proteste nella stagione delle stragi di Cosa Nostra. E a loro ripensa oggi Marcel Padovani, a quei ragazzi di 19 anni per i quali lei, cronista francese, scrisse con Giovanni Falcone cose di Cosa Nostra. La parola come testimonianza e la parola come trasmissione di un sapere sono queste due le cose che secondo me hanno mobilitato i movimenti, i giovani, eccetera, dal momento in cui i magistrati hanno deciso di non tenere per sé o per le aule dei tribunali la loro esperienza, il loro sapere, perché Giovanni Falcone non era l'unico che sapeva di Marcia, voglio dire Chinnici prima di lui e tanti altri, e invece lui è stato il primo a decidere di fare il passo, cioè di raccontare quello che lui riteneva utile far sapere. Questa trasmissione della parola ha aiutato anche la crescita dei movimenti antimafia dei ragazzi? Sono convintissima che ha aiutato, perché almeno questo libro l'abbiamo concepito come quasi pedagogico, e credo che sia stato utile per i giovani, perché lì si parlava concretamente e in modo comprensibile, ed è stato utile anche, aggiungerò, per le forze di polizia, per le forze della repressione. Io mi sono accorta che giovani poliziotti hanno cominciato a integrare un certo numero di informazioni sulla mafia a partire da quel libro. Anche loro, i poliziotti, considerano questo libro una sorta di Bibbia dell'antimafia e lo mettono in pratica ogni volta che fanno camminare le idee dei giudici uccisi dalle mafie sulle loro gambe, ogni volta che fanno semplicemente il loro dovere, quanto basta, come amava ripetere Giovanni Falcone, perché una società vada bene e si muova nel progresso. Italia in Controluce, seconda edizione, torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.